finisce un po' il Breakfast Club con la mattina di Radio Città Fucico, che di solito annuncia un jet live promettendo un raggio di sole. No, non ha mantenuto la promessa. Oggi il jet live alle 11:31 minuti vi accoglie con un cielo un po' coperto, però puntualissimo per darvi informazione su tutto ciò che è il percorso che è stato portato per il Bologna Jazz Festival. Approfondimento anche con Ferrara, grazie a delle voci dei protagonisti che troveremo a breve. Intanto, a proposito di voci, al microfono e in regia da questa parte dello studio William Piana, di fronte a me Alfredo Pasquali. Buongiorno Alfredo. Grazie per avermi definito The Voice come Frank Sinatra. The Voice, hai capito? Beh, diciamo che Frank Sinatra magari aggiungeva qualche nota. Potrei cantare Stranger in the Night, è meglio di no. Aggiungeva qualche nota. Ci vorrebbe Sergio. Noi lo citiamo sempre per il suo talento vocale. Faremo prima o poi anche un duetto, un trio per quanto riguarda la musica italiana, che del resto negli standard jazz qualcosa appare, come già abbiamo detto più volte. A breve avremo il direttore artistico del Bologna Jazz Festival e di Ferrara Jazz Club il Torrione, Francesco Bettini. Intanto vi annuncio che l'abbiamo un pochettino rapito dai suoi impegni, in quanto adesso al Torrione è in corso una conferenza stampa a proposito di un abbinare musica, realtà artistiche, storie nella location del Torrione, che come abbiamo detto più volte ha delle particolarità molto suggestive e molto importanti, e quindi sarà inserito in un percorso legato anche alle visite artistiche e perché no anche al turismo di Ferrara. Ma di questo magari ci darà qualche anticipazione il nostro Francesco. Intanto noi cominciamo nei percorsi che sono stati fatti tra Bologna e Ferrara. Avendo la voce di Francesco daremo un'attenzione al Torrione particolare, proprio per la conclusione del Bologna Jazz Festival. Tu hai visto concerti, Alfredo? Sì, fuori dal Torrione, però. Hai visto qualcosa anche al Torrione? No, al Torrione, me, per motivi anche così personali, certo, ogni volta che andarci mi succedeva qualcosa. Ci ho pensato io. C'è una maledizione che mi colpisce. Detto questo, invece, ho visto, vorrei segnalare, a parte il concerto delle superstelle di Joshua Redman, Mel Dow, Brian Bladen, mi sfugge il nome, Christian McBride, fantastici, una purezza di capacità di solo notevolissima in questo jazz classico, modern jazz, ma fatto a un livello tale che comunque metteva da parte ogni tipo di polemica possibile, insomma. Ma poi ho visto questo altro concerto, vorrei segnalare che è importante, il duo Mirabassi e oggi piove. Ok, però il concerto di Mirabassi, tra l'altro, era in duo e l'hai visto in un all'Unipol, all'Unipol Arena, al Cutter, che insomma Zanchini, ecco, scusate, fisarmonica e clarinetto, è stata una roba davvero da brividi, e altri che ho visto anche nelle varie cave, ma questi direi che sono quelli che più mi... Ah, poi da segnalare, divertente, ben fatto, il concerto della Big Band di Mingus, peraltro che, perché quando senti la Giovanna Mood, quando senti Haitian Five Song, insomma, ti vibra, a me vibra qualcosa dentro, perché insomma sono brani che hanno, come dire, formativi nella mia concezione del musicale in generale. Allora, Mirabassi, Zanchini, Il Gatto e la Volpe, era martedì 8 novembre al Cubo in Torre Unipol. Stiamo ascoltando, bellissimo peraltro, l'ultimo piano. Sì, mi hai detto che c'era da godere di un panorama, sì, atipico ma molto suggestivo. Con Bologna ai piedi. Infatti però noi, a proposito di suggestioni emotive oltre che qualità musicale, andiamo legato al Bologna Jazz Festival nella sede estense per il concerto che stiamo ascoltando da un disco SCM preso proprio dal disco Return from the Stars. Lui è Mark Turner con il suo quartetto che vedeva Jason Palmer. Mi ha detto un gran bene di questo concerto. Concerto per me meraviglioso, Alfredo. Per me molta gente che è un gran bene. Questo bene. Concerto è stato veramente di un equilibrio, ma nello stesso tempo di una spettacolarità e di un coinvolgimento. Io personalmente do l'MVP a questo concerto, però c'è da dire che con Mark Turner, non dico vinci facile, però insomma è stato un nome importante. Bisogna averli visti tutti. Infatti, non l'avendo visto tutti, giusto, dico belli Esatto, a me è piaciuto, certo, molto più da definire in maniera azzeccata in questo modo. Comunque ce lo ascoltiamo proprio Return from the Stars. Vi ho anticipato con Francesco Bettini un approfondimento per quanto riguarda la conferenza stampa ora in atto al Torrione, e poi due parole anche per quanto riguarda il termine dell'edizione del Bologna Jazz Festival. A tra poco. Anche rispettando l'ordine delle voci presenti in diretta telefonica a questo Jazz Live, intanto l'abbiamo rapito da una conferenza stampa di cui ci parlerà e ci darà qualche così anticipazione il direttore artistico del Jazz Club Ferrara del Bologna Jazz Festival, Francesco Bettini. Buongiorno, bentornato Francesco. Sì, rapito letteralmente perché la conferenza sta in effetti avvenendo contestualmente a questa intervista. Mi sono sganciato sperando di non prestarci piedi vicinevolmente. Vabbè, trattaci comunque di una bella iniziativa fortemente voluta da Eleonora Sole Travagli, che è il nostro diciamo ufficio stampa, ma non solo, che è la seguente cosa: siccome la struttura che ospita la stagione di Ferrara in Jazz, che è stata anche diciamo protagonista della parte del palinsesto di questa edizione, la sede è un bellissimo bastione rinascimentale del 400, della fine del 400, inserito nel contesto della cinta muraria estense, sostanzialmente proprio quella diciamo del tardo rinascimento, che ha nel momento in cui la città si è duplicata aveva la necessità di circoscriverla. E che dire, l'idea è quello di farlo fruire anche ai turisti, ai pacchetti turistici degli stessi ferraresi, che magari non ci vengono, non sono mai venuti a viverlo come jazz club, ma lo possono fruire come monumento, come emergenza architettonica rilevante all'interno del suo cittadino, e quindi le stiamo presentando questo ciclo di visite guidate che ci saranno, dove ovviamente si parlerà anche di quello che è oggi, insomma. Sì. Cioè di un luogo dove in maniera molto intelligente l'amministrazione ha deciso di utilizzarlo, facendolo vivere come spazio culturale, non solo come monumento a sé stante. Certo, oltre che sede concertistica di grande pregio e tante altre caratteristiche che del resto la città estense ha, che oltre a una struttura urbanistica particolare, parlando dell'epoca protagonista del Torrione, ha mantenuto molti aspetti pur in intersezione con il contemporaneo, il Torrione indubbiamente ne dà un valore aggiunto legato a tutta la cinta muraria. Allora, di questo magari con Eleonora Sole, poi adesso impegnati in conferenza stampa, avremo modo di darne ulteriore approfondimento. Intanto grazie per questa tua fuga immediata dalla conferenza. Allora ti chiedevo, termine del Bologna Jazz Festival, Ferrara coinvolta, un compendio, Francesco, siamo in grado di portarlo già adesso? Tracciare una sorta di bilancio, intendi? Sì, un compendio, una sorta di bilancio, ecco. Guarda, per certi aspetti benissimo, per altri malino. Benissimo, per altri, malino vince il bene. Sì, beh, insomma, abbastanza bene, diciamo. È piuttosto complesso capire come diciamo quelli che erano la consuetudine nei flussi del pubblico ora è diventata una turn on lot, nel senso che talvolta hai, è molto intermittente la presenza del pubblico, nel senso che una volta potevi dire con questo artista sono sicuro che verranno X appassionati, tra X e Y, ma in un range abbastanza diciamo certo, mentre adesso è più fluttuante. Ma questo sia per quello che concerne diciamo musicisti di grande attrattiva che quelli di media attrattiva, quindi è un prenderci, e comunque al di là del un prenderci, devo dire che nell'ambito della città di Bologna hanno funzionato sempre in maniera eccellente quei luoghi che fanno cultura tutto l'anno, quindi la cantina 20 Voglio era sempre piena, il Bravo Caffè era sempre pieno, il Camera Jazz and Music Club idem, anche i luoghi diciamo più trasversali ai linguaggi come che so lo Sghitto, il Binario sì. Il 69 il Locomotive hanno tutti risposto particolarmente bene in termini di presente, quasi sempre soldati. Ferrara e Forlì, che hanno un altro tipo di attrattiva, sono comunque hanno funzionato e la qualità dei concerti dei club, incluso diciamo in questo circuito degli artisti che ha toccato i club di Bologna e quelli di Ferrara e Forlì, poi abbiamo costruito 5 piccole tournée diciamo in questo triangolo, quindi sono andati benissimo, sia sul, forse anche dal punto di vista qualitativo le cose più belle, cito il trio di Jay Baron, Mix Monk, il quartetto di Mark Turner, il trio Kevin Ace, Ben Street, Billy Hart, tra diciamo le cose più riuscite in assoluto del festival sul versante diciamo del jazz, e perché hanno fatto proprio parte di questo diciamo piccolo circuito che abbiamo creato. E basta, che dire, invece quali sono i contro? Ci sono avuto una serie di spighe, col suo nome, il loro nome, col esatto. Suo nome, esatto. Per cui che so, il concerto Amigos Big Band, che è comunque andato in linea con le aspettative in termini di presenze, anche musicalmente, anche se devo dire che ho preferito la performance su Mingus della Tower del Composer Orchestra, che ha interpretato Mingus in maniera più pertinente, più mingusiana, che non la stessa Big Band, che era un po' come dire prevedibile, sì, un po' impostata, nel senso quasi come se fosse un'orchestra di musica classica ma jazz, capito? Okay. Con dei bellissimi spunti solistici, perché sono dei musicisti fantastici, però magari senza quella naturalezza nel fare arrangiare istantaneamente come avveniva nelle band di Mingus, cioè senza quel rischio che c'era sempre nella musica di Mingus e che la rendeva in un certo qual modo imperfetta ma incredibilmente dinamica e sempre sorprendente. E lì in quel caso la baritonista dopo il primo pezzo è diventata verde ed è scomparsa dal palco e l'abbiamo portato in Alfredo sta confermando. Sì, ciao Francesco, è vero, abbiamo già notato, ma la baritonista così era gettone, invece è stata male, poverina. È stata malissimo di stomaco, di tutto, si vede che qualcosa che ha mangiato dato fastidio, un'allergia o che so io. Ed era dispiaciutissima ovviamente, però insomma è stata male che da non poter veramente suonare. E poi, non so, era molto atteso uno dei più importanti cantautori brasiliani di sempre, che è Du Lobo, che purtroppo è arrivato con un gran raffreddore il giorno prima, poi il raffreddore è diventato tracheite, poi insomma ha fatto veramente tanta fatica a cantare quella mezz'ora che è riuscito a cantare, il resto dello spettacolo ha tirato avanti il gruppo, per quanto e quindi anche lì è stato per noi come dire una grande difficoltà nel gestire la cosa, perché certo. Fino alle prove andava benissimo, cioè capito, quindi non è che puoi dire lo annulliamo all'ultimo minuto, lui se la sentiva ma poi a un certo punto era più fatta. Ah sì, capisco la sfiga, il termine che dice, il fascino della diretta. Sfiga, esatto. Perfettamente. Poi non so, adesso il quartetto di Aaron Parks al Torione, che era dentro il festival, non si è potuto fare perché ed era un sold out mostruoso, previsto, perché non si è sentito bene dal punto di vista insomma di salute, ecco. in salute sul serio, però tant'è che il giorno dopo l'abbiamo caricato su un aereo per gli Stati Uniti. E ha interrotto la tournée europea a metà. Vi andremo tutti dalla Sampira a fare un ma non è finita, c'è anche non so, Marco Pereira che per un concerto previsto al Bravo, per un misunderstanding tra il Bravo e la gente, poi è l'agente l'agente, esatto. sì, l'agente il suo manager, sì, okay. Se no si capiva, non sarebbe male tra Max del Bravo e l'agente un diverbio, sarebbe bellissimo, un'arrabbiatura generale, esatto, che esce in mezzo a Mascarella una rissa, no, non è stato questo. E va bene, insomma, quindi ci sono stati tanti piccoli momenti di difficoltà, piccoli, medi e grandi, insomma, perché cancellare un concerto oppure farlo, diciamo, in qualche modo zoppo, non è mai un piacere, anche perché il culo pazzesco, il lavoro a monte da un anno a questa parte, fino al montaggio, all'allestimento, tutti i tecnici, tutto in posizione, i teatri, tutte le spese che competono, poi organizzare gli spettacoli dalla alla Z, quando sei lì o non comincia o comincia zoppo, insomma. Non va bene. Sì, ti confesso che anche io ho avuto il mio picco delle esperienze di organizzazione di concerti, alla fine ho pensato che è meglio andarli a vedere i concerti e organizzarli. È più comodo, vai lì, paghi un biglietto, ti siedi e quello che è. Vero, non c'è predieri con la nebbia, malattie, raffreddori. Ma sì, beh, sai, però la cosa è che tutti i piccoli contrattempi, quelli attennellati, ci sono sempre, soprattutto sulla logistica e sugli spostamenti. Però strumento che non arriva, esatto, però si risolve tutto. Invece sì, non riesci a lavorare in 30 minuti sulle corde vocali di uno, sull'equilibrio psichico di un altro e sullo stomaco della signorina, cioè, da fare. E lì sei totalmente impotente e quindi è quello che è, insomma. Speriamo, ma non credo, perché non abbiamo avuto, diciamo, riscontri particolarmente, diciamo, feroci da parte del pubblico che ha assistito a questi concerti o che non è riuscito ad assistere perché sono zompati, che abbiano capito, insomma, che erano davvero tutte situazioni al di fuori della nostra possibilità di controllarle, insomma, in cui abbiamo rispettato sempre, e questa è la cosa fondamentale, la decisione dell'artista, cioè se l'artista se la sente di fare il concerto e poi nel mentre succede qualcosa per cui le deve in qualche modo interrompere, noi dobbiamo rispettare quella scelta. Ma credo che il pubblico abbia capito, anche perché la vostra presenza ormai decennale, serietà, comprova il fatto che non siamo davanti dei cialtroni, siamo davanti a gente molto seria, quindi se c'è un problema, c'è un problema. Infatti. E poi grazie Francesco per tutte queste dietro le quinte, per quanto riguarda le particolarità del... Ma io i concerti me li vedo da lì. Infatti, chi meglio di te? Esatto. Sei stato ma quanto si gode un concerto visto da dietro? Cioè, è una questione di deformazione, cioè sono talmente abituato a organizzare e a vivere i concerti all'interno del Torione, dove fondamentalmente sei a una distanza di totale resa acustica dello strumento, che nei teatri il filtro dell'amplificazione, tutte queste cose qui, sentirmi così distante non riesco proprio, cioè nel senso che fatico a godermelo. Quindi, visto che comunque ci devo stare in produzione per una ragione o per un'altra, invece che fare il giro e mettermi magari anche nelle prime file, che dove la sensazione, diciamo, di distanza è inferiore, però sto lì sul palco, mi arriva tutto. Posso farti una domanda? Ecco, quanto può incidere nel tuo giudizio di apprezzamento in un concerto quanto ti sta simpatico o antipatico un musicista, come si comporta bene o male prima del concerto rispetto alla sua poi capacità artistica finale? Domanda è importante. Beh, sì, allora, indubbiamente incide moltissimo. Incide moltissimo sul piano, diciamo, di quella che è la tua sensazione di organizzatore complessiva, cioè hai chiaramente meno disposizione d'animo all'ascolto se ti hanno spaccato i maroni dall'inizio. Fai Oppure se si sono, diciamo, hanno fatto le prime donne con richieste assurde, impossibili, perché succedono queste cose. Però devo dire, il jazz è musica di grande comunità, per cui è rarissimo che avvengano cioè, proprio le star che sono già quasi fuori dal mondo del jazz hanno molto filtri, hanno diversi filtri del manager, della gente, di questo, di quello, di quell'altro, che rendono quindi questa cosa meno cioè un rapporto meno immediato e con uno scarico di tensioni, no? Cioè l'artista magari dice che è a disagio per una cosa, passa alla gente, che passa al direttore di produzione, che ti arriva a te una roba che sembra che sia incazzato come una pantera, quando in realtà è leggermente a disagio, no? Quindi sono tutti scarichi di tensione tendenzialmente, ma questi sono quasi rarissimi. Per cui insomma è così raro che ci siano stati dei problemi dal punto di vista, diciamo, personale e umano. Però anche laddove c'era più tensione, più o meno motivata da parte degli artisti che erano meno simpatici, diciamo, poi se la performance è all'altezza e certo, passa tutto. Sì. E in genere poi cosa succede? Che loro incredibilmente, finito il concerto, se ha funzionato, diventano buonissimi perché chiaramente per taluni, perché altri sono persone favolose prima, dopo, durante, per quelli diciamo un po' più tignosetti è quasi sempre scontato che alla fine tutto baci e abbracci, se tutto va bene poi baci e abbracci, certo. Anche perché Altorione ci sta bene, infatti. Oh, beh, Altorione non è mai successo, sinceramente, ma sai, non sono neanche mai passati le star, perché non è che possiamo fare pattinettini al Torione, per capirsi. Che uno comunque è bellissimo. abbiamo citato esatto, una persona disponibilissima. No, è un esempio così, non certamente pertinente, cioè, alle caratteristiche negative. Un esempio di scuola, si dice. Ascolta, Francesco, io ti ringrazio tantissimo per le anticipazioni che hai portato, per i dietro le quinte, per il resoconto di termine stagione del Bologna Jazz Festival, in correlazione anche con il Torione. Ti lasciamo ai tuoi impegni. Noi procediamo. Un'ultima domanda: la stagione Torione, la prima parte del Torione, fino a quando va avanti? Dunque, chiudiamo con un concerto che abbiamo aggiunto proprio in corsa, ma l'abbiamo promosso da subito, del duo Larry Grenadier e Rebecca Martin, il 19 di dicembre. Ah, ok. Quindi concerto natalizio. Ma sì, oddio, lei canta divinamente gli standard, certo, e anche buone doti autoriali. Larry è uno dei massimi contrabbassisti, certo, del mondo, nonché suo marito, tra l'altro. Ah. E quindi hai voglia che hanno provato. Bene, va bene, grazie. Bene, grazie Francesco, ci sentiamo presto. Ciao, un abbraccio. informati perché vuoi andare in vacanza, Alfredo, qual è l'ultima data? No, perché è sempre così attivi loro. No, loro arrivano fino proprio a ridosso. Poi dopo riprendono a fine gennaio. A fine gennaio, sì. Noi che vanno avanti fino a maggio, quindi la stagione è ancora ben lunga. Beh, non è un festival, ma è una annata, diciamo, per il Torrione. E quindi noi cominciamo a passo di gambero, se vogliamo, perché la prossima settimana sarà frastagliata dall'Immacolata, che è l'8, e il 7 il Torrione fa un concerto. Il protagonista è lui, è questo musicista dal nome intuisco africano. Sarà sudafricano, non d'uso. E dalla pubblicazione Blue Note, anche il brano che stiamo ascoltando, e sarà presente al Torrione il mercoledì 7 dicembre, quindi mercoledì 7 si può fare un pochettino tardi, visto che è l'inizio per chi vuole o per chi può di un ponte, e quindi giustamente il Torrione sta aperto. Diciamo che Macatini, non d'uso, è un pianista. Ah, ok, pensavo fosse un sax. No, un pianista. Io non lo conosco. E i suoi riferimenti sono musicisti come Abdullah Ibrahim, ah, okay, che noi abbiamo conosciuto prima della conversione islamica come Dollar Brand. Sì. E infatti sentite questo giro di mano sinistra, ricorda l'altro appunto quei vecchi suite di Dollar Brand. Oppure quel McCoy Tyner, quando nella parte finale, quando con la sua orchestra citava Terzo Mondo. Comunque, formazione Luca Richardson, questo lui è il sax contralto, Macchettini al pianoforte e alla voce, Zucchele Belle Le Père, quindi vedete questo nome francese, inglese, africani, sudafricani, contrabbasso, e Chad Taylor conosciamo, certo, alla batteria. Al batterista, scusate per questa, è una bella formazione. Ah sì? Una bella formazione, un bel concerto prima del ipotetico ponte. Perdonate per il refuso, non avendo il foglio di presentazione del concerto e sentendo questo assolo di sax, convinto. No, ma se senti il giro di piano, è tipicamente Dollar Brandiano. Sì, quel Dollar Brand che forse in modo più eclatante, dopo la schiera di musicisti che andò verso l'Inghilterra a seguito di Chris McGregor, però ha portato queste aree africane nel jazz. Sì. Queste melopee così dolci, ritmate, che in qualche modo al suo tempo fecero una nota diversa, un Dollar Brand che poi sono anche con Duke Ellington, insomma un personaggio che dall'Africa è trasmigrato nel nuovo mondo. Decisamente, e con queste note vi accompagniamo alla pubblicità dopo aver anticipato il concerto di mercoledì. Come ho detto, si ritorna poi in diretta con una voce di un batterista. Beh, in Italia direi che non ha bisogno di presentazioni, perché è Roberto Gatto. Roberto Gatto e la formazione al Torrione, appunto, sarà per sabato 3 dicembre alle ore 21. Roberto Gatto Quartet con Alessandro Presti alla tromba, Alessandro Lanzoni al pianoforte e Matteo Bortone al contrabbasso. Insomma, c'è il meglio della generation italiana. È una bella formazione anche questa. Sentiremo la voce del frontman Roberto a breve, dopo la pubblicità. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Parte 12.04 minuti e quindi abbiamo portato anticipazione per quanto riguarda il concerto del 7 dicembre. Dopo il bilancio di Francesco Bettini per l'intersezione Bologna-Ferrara all'interno del Bologna Jazz Festival, ora entriamo ufficialmente nel weekend che ci aspetta, e domani ci aspetta un quartetto condotto da Roberto Gatto alla batteria, di cui abbiamo già dato una presentazione. Ora con noi il frontman, il batterista Roberto Gatto. Buongiorno Roberto, bentornato in frequenza, buongiorno. Buongiorno a voi, ciao ciao. Sei in viaggio da quel che ho capito. Sono in viaggio, tanto per cambiare. Esatto. Passiamo tre quarti della nostra vita in viaggio. E quindi se è il percorso del vostro quartetto, tra l'altro, come sto leggendo, con Alessandro Presti alla tromba, Alessandro Lanzoni al pianoforte, un Matteo Bortoni al contrabbasso, tu sei un po' il senior in mezzo a questi atleti, Roberto? Assolutamente sì. Beh. E lo sono abbastanza sempre stato. Mi sono sempre circondato di musicisti più giovani di me. E quindi continuo con questa modalità, che comunque con questa filosofia, certo. Sì, offre tante cose divertenti, eccoci. My Secret Place è il lavoro, l'ultimo lavoro recentemente realizzato, quindi ci porterete in questo posto segreto, e cosa scopriremo, Roberto? Ma guarda, il disco è nato durante il periodo sfortunato della pandemia, in pieno lockdown, quindi comunque è stato realizzato in una cornice dove abbiamo cercato di reagire, appunto, producendo e registrando questo album. E è passato un po' di tempo ormai, anche se questo è l'ultimo lavoro, appunto, discografico di questo quartetto, però comunque noi, la caratteristica di questo gruppo è di rinnovare il repertorio in continuazione, quindi suoneremo parte dei brani del disco, ma anche cose nuove, brani originali nuovi, anche altre composizioni, insomma, quindi siamo sempre un po' in movimento. Del certo. Resto Non abbiamo mai molto tempo per fare prove, perché abitiamo tutti in posti diversi, però quando ci incontriamo riusciamo, nel tempo del soundcheck, insomma, a mettere a punto nuove composizioni. Questo ci dà chiaramente nuovo entusiasmo, certo. Nuovo entusiasmo, nuova linfa ogni volta. È un po' la caratteristica di questo gruppo. Ti passo Alfredo Pasquali, che è qui con me. Buongiorno. Allora, ciao. Buongiorno, ciao. A volte ti abbiamo sentito così lavorare anche su spartiti non provenienti proprio dal patrimonio del jazz. C'è questo riflesso anche in questo gruppo? Beh, c'è stato nel disco sicuramente, e c'è talvolta anche nei concerti dal vivo. Cioè, non mi sono mai creato grossi problemi ad uscire fuori dal repertorio, proprio anche dei brani originali. Mi piace andare a prendere anche, come nel disco, appunto, una canzone dei Coldplay piuttosto che una vecchia canzone che cantava Gianni Morandi, insomma, repertorio italiano a volte, oppure colonne sonore, brani famosi presi da film, insomma. Comunque sono sempre stato molto favorevole, appunto, a uscire da determinati percorsi. Sì, sì, certo. Assolutamente. Devo dire che la stessa storia del jazz è fatta così, Cioè, chi cerca la purezza nel jazz direbbe Mingus, no, non la trova, è peggio di un bastardo. No, è vero. E Roberto, tra l'altro, no, io non so, io immaginavo, intanto che venivo in redazione questa mattina prestissimo così, tu sei papà d'arte, oltre che avere una figlia d'arte con Barbara Gatto, con la quale tra l'altro hai portato e stai portando dei lavori. Com'è lavorare con Beatrice? Esatto, no, scusa, Beatrice, intanto, cosa sì, ho già fatto subito, vabbè, inizia per la Bettini, la confusione immediata, dimmi tutto. Ci mancherebbe. No, è divertente, è una cosa molto appassionante, e comunque ognuno poi ha la sua cosa, il suo mondo musicale, però ovviamente mi fa strapiacere che ogni tanto lei venga a fare delle guest con noi, col quartetto, benché appunto lei poi abbia la sua storia musicale che sì, in parte è legata a jazz, ma anche molto alla musica che c'è oggi in giro, insomma, un po' più contemporaneo, sempre di livello, mi auguro che mantenga sempre questa linea che un po' gli ho inculcato io, insomma, essendo mia figlia. Certo. Comunque ha dei gusti sicuramente interessanti e si muove appunto in un versante comunque sempre verso la ricerca, ecco, e mi fa molto piacere averla ogni tanto con me. Ne approfitto perché abbiamo al telefono un signor maestro della batteria. Certo. Allora, un tuo giudizio, la batteria si sta cambiando da generazione in generazione oppure rimane più o meno sempre lo stesso tipo modo di drumming? Cosa sta avvenendo per le percussioni? Ma come c'è stato, diciamo, inevitabilmente un cambiamento abbastanza grosso nella musica, no? Cioè abbiamo diverse cose che sono uscite fuori in questi ultimi anni, questo R&B o comunque drum and bass, piuttosto che no, questo nuovo new soul, eccetera, anche nel mondo della batteria, non sicuramente nel campo del jazz, ma piuttosto in altri generi di musica sono uscite fuori nuove tendenze legate appunto a questo strumento, tipo gospel chops, insomma gente che va a prendere un po' dalla tradizione rimaneggiando con una buona dose, diciamo, di tecnica, di preparazione tecnica alle spalle che magari un tempo non c'era, e quindi questa cosa genera tutto un mondo batteristico che sinceramente io non seguo più di tanto, ecco, devo dire, però sì, inevitabilmente è un po' cambiato. Poi continuano invece a coesistere anche appunto la tradizione più legata appunto agli anni dei grandi batteristi della storia del jazz, anche molto nei giovani succede questo, ma per carità è giusto che sia così, e poi dall'altra parte invece andare ad esplorare anche mondi più verso l'elettronica, verso queste cose qui. Io stesso, insomma, ogni tanto mi sposto verso quel mondo lì, anche perché sì, ho suonato molto jazz, però ho suonato anche molto prog, e vengo anche un po' io dal rock, da quel periodo lì, per cui mi piace l'elettronica, mi piacciono gruppi della storia appunto del progressive, ma anche cose moderne tipo The Smile o Radiohead, o gruppi che comunque seguo e che vado a sentire anche nei concerti quando vengono in Italia e non solo, per cui sono molto interessato a quel mondo dell'elettronica. Sì, per la Blue Note c'è Mac Raven, adesso non so se l'ho pronunciato bene, che ha rifatto dei brani di G. Scott Heron, che porta anche lui una sorta di modern jazz, giovanissimo tra l'altro. Beh, certo, il cambiamento e anche l'inserimento delle ritmiche R&B, drum and bass, dove l'elettronica è presentissima, certo che cambia un pochettino le angolazioni. Comunque l'intersezione è sempre presente. Sabato 3 dicembre, cioè domani alle ore 21, avremo il quartetto di Roberto Gatto, Alessandro Preste alla tromba, Alessandro Lanzoni al pianoforte, Matteo Bortone al contrabbasso. Quindi Roberto, appuntamento al Torrione, io ti ringrazio tantissimo e non mi resta che augurarti un buon viaggio. Grazie. Ciao. Grazie a voi ragazzi, ciao, grazie ciao, della ciao, bella chiacchierata. Ciao. Beh, Presti è bravo, eh. Qui stiamo ascoltando la formazione per domani al Torrione in un altro live al Dizzy Jazz Club. Siamo in un passaggio classico dei brani jazz, il 4/4, tra batterista, sì, e strumentista, tra batterista e strumentista, che si passano la palla, no? questo è un mainstream quanto mai curato, una lettura bella, lucida, accattivante. Io ho selezionato anche un brano, mi perdonerà Barbara Beatrice, no, è Beatrice, quindi un brano insieme a Roberto Gatto per questo featuring. Quindi lo propongo intanto che noi andiamo verso la serata odierna. Dove? A proposito di batteristi, Alfredo, questa sera la batteria c'è Andrea Grillini. Conosco solo lui, sono molto curioso. Il gruppo è Luca Perciballi Organic Gesture, con trio. Luca Perciballi la chitarra, quindi siamo un chitarrista che conduce le danze, Andrea Grossi la contrabbasso e Grillini la batteria. Grillini quanto mai di ricerca, anche un musicista se vogliamo attento allo studio, non immediato, così poi lo vedi fuori dal palcoscenico, è uno tra i più grandi sbordelloni che abbia mai conosciuto, ma del resto questo... l'artista siamo noi... oggi siamo molto nei backstage siamo nel backstage, sì, ma non l'ho offeso, no, per niente, è un ragazzo molto cordiale, molto scherzoso. No, ma sbordellone sì, simpatico. È uno che scherza, è uno simpatico. Comunque, e poi lo vedi sul palco scenico. Beh, certo. Preciso, Allora, sul palco presenteranno Approximately Chris with a Plane, che è il progetto, e che è una musica molto legata anche all'improvvisazione, l'interprete, i musicisti, insomma. Sì, ne sentiremo qualche nota di più a breve con Luca Perciballa, che è il frontman di questo trio, con noi in diretta telefonica. A breve. Intanto, Beatrice Gatto. For impulsive ingenue, but now I know too well. I know too well. I know the meaning of the blues. Then let it. E sarò al Torrione questa sera, venerdì 2 dicembre alle 21.30, Luca Perciballi Organic Guest Trio, con il frontman Perciballi alla chitarra, Andrea Grossi al contrabbasso e Andrea Grillini alla batteria. Intanto ne approfitto per portare in diretta Luca. Buongiorno, benvenuto Luca. Buongiorno, grazie di avermi ospite. Ah beh, un onore per noi, anche perché per me è un esordio totale con te, quindi sono molto molto curioso di trovare un trio, non dico atipico, chitarra, contrabbasso, batteria, perché insomma è qualcosa chiaramente di presente e frequente, anche se vogliamo, non c'è più, c'è, ma è molto più standard, piano, contrabbasso e batteria, in questo caso con la chitarra. Come avete messo assieme le vostre sonorità e cosa ascolteremo al Torrione, Luca? Allora, al Torrione vi presenteremo il repertorio che è tratto dal nostro primo disco, che è uscito esattamente un anno fa per Out, che si chiama Approximately Grids with a Plan, ovvero una serie di composizioni appunto per questo organico, che hanno la caratteristica di essere modulari, per cui noi ci permettiamo di montare i pezzi e rimontarli a piacimento in ogni esecuzione, avendo comunque dei punti fermi e ovviamente arricchendo insomma tutto quello che è la trama delle composizioni con i nostri interventi improvvisativi, suoni di gruppo e l'aumentazione dei nostri strumenti sia con le tacchette stelle che con l'elettronica. Quel po' che ho sentito è un'improvvisazione di insieme comunque. È un'improvvisazione di insieme, dico, è un lavoro molto di insieme. C'è un buon bilanciamento, direi, fra un'enorme quantità di parti scritte e un'enorme quantità di improvvisazione. E in questo Grillini gode. esatto. Qui con me Alfredo Pasquali alla co-conduzione del Jazz Live e te lo presento, guarda. Ciao. Siamo qua. Dunque Luca, prima chiedevamo a Gatto svolgersi della batteria nel tempo, adesso tu sei un chitarrista, che hai dei modelli, sono i Friesel, sono i Metini, qual è la Jimi Hendrix, qual è la formazione principale di un chitarrista adesso? O è tutto insieme? Ci sono una quantità di modelli a cui non si può prescindere. Hai citato Friesel, è assolutamente, direi che sia il mio riferimento principale. Aggiungerei ad esempio Marc Ducret, straordinario, con le corde lente, diciamo, esatto. E poi ho dei riferimenti che non sono assolutamente chitarristici, ma che rimangono molto importanti. Alcuni compositori, ad esempio Ligeti, e alcuni altri strumentisti, come ad esempio Paul Blay, sicuramente. Ah, ok. Ecco. Quindi vai nella musica contemporanea, ma anche poi nelle, cioè, un grande pianista come Paul Blay, cioè, non c'è dubbio. Sì, esatto. Ok, questa sera con Luca Pierciballi, come abbiamo già detto, troviamo il bolognese Andrea Grillini. Tu di dove sei, Luca? Io sono di Modena. Ok, stiamo in regione. Andrea Grossi? Andrea Grossi è monzese, vive a Milano. È l'unico extra regione. È l'unico extra regione, ma abbiamo studiato nello stesso conservatorio Parma, per cui ci siamo conosciuti. Vi siete un po' trovati, ecco. Esatto. Posso dire che siamo una band, tra l'altro, questo è sicuro. Io sono curiosissimo, sai, questa sera ci conosciamo e ho ascoltato qualcosa dei vostri lavori e certamente non sarà un concerto banale, quello non posso già garantire, ma poi io conosco molto bene Andrea Grillini, so bene, certo, che sia. Certo. A determinate sonorità in un certo modo. L'elettronica. L'elettronica è il mio pallino. Lo sapevo. Io lavoro anche come sound designer, come compositore di musica elettroacustica. E il set elettronico per me è imprescindibile. Cioè, io sono una chitarra elettrica e non è un caso, ecco. L'idea di aumentare il timbro del mio strumento, che di per sé è anche piuttosto debole, cioè, espressivamente, per certi versi, con l'elettronica per me è una cosa fondamentale, assolutamente imprescindibile. Ok. Quindi, certo. E a disposizione ci sarà il vostro disco questa sera? Sì. Il disco sarà in vendita. Perfetto. Noi ti ringraziamo tantissimo per la disponibilità. Ringrazio voi. Grazie. E poi ci vediamo questa sera a Ferrara. Ciao. Va bene, arrivederci. Ciao. Sia un lavoro dove la scrittura è d'insieme, assolutamente ben equilibrata, e musica non banale, un disco non immediato, però appunto per questo ne ho la curiosità per il concerto di questa sera al Torrione. Ma non finisce qui, perché ovviamente abbiamo anche la domenica con Istantanea, con, mi pare ci sia, Alfonso Santimone, il nostro amico. Sì, abbiamo questo Limen Apraxias con Daniele D'Alessandro, la clarinetta, Alfonso Santimone, che forte. Prima si diceva che Luca per Luigi Balli si riferiva anche al, così, al misticismo dei musicisti contemporanei come Ligeti, beh, qui Daniele e Alfonso, inteso come D'Alessandro e Frantimone, hanno avuto esperienze con Sciarrino, quindi un grandissimo esponente della contemporanea italiana. Perciò, certo, insomma, siamo sempre ad alti livelli. Con la domenica, anche quella, una rassegna che aggiunge un valore anche particolare nella ricerca. Si conclude il nostro weekend. Ricordiamo che per questa settimana entrante, che sarà frastagliata dall'8 dicembre, ci sarà il concerto al Torrione che vi abbiamo dato così breve anticipazione poc'anzi per il Jazz Club Estense. La musica sguazza Grillini, guarda. Comunque, detto questo, vi darò approfondimenti magari più particolari nella prossima settimana. Intanto noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo un buonissimo weekend in musica, in jazz e con Radio Città Fujiko, ricordando www.radiocittafujiko.it/abbonamenti, tutte le puntate dedicate, abbonate, abbonati per i 103.1, perché Radio Città Fujiko, sì certo, qua in via Zanardi e in tutta la città e provincia in streaming, ma ricordate, siete voi e quindi aspettiamo la vostra presenza. Sapete poi che c'è anche lo speciale Vengo Anch'io, in cui la voce di un abbonato o di un'abbonata è presente e divulgata in frequenza, per cui avvicinatevi a tutto ciò, sarete accolti a braccia aperte. Grazie, buon appetito, a breve il GR di Radio Popolare. Ciao ciao, risentirci. Ciao ciao, ciao. Thank you. Thank you.